parla con le amiche, ma quando passo sorride, le chiedo cosa vuoi da bere, mentre mi bevo ciò che dice, e bevo un altro Cuba Libre. Perdo la connessione, sto come un meteorite verso la collisione. Lì pensa che di Barbie c'ho tutta la collezione, che voglio solamente scartare la confezione. Se mi vieni a cercare solo d'estate non vale, se non mi riprendo non ti rispondo, non richiamare. Se ti dico che arrivo poi non arrivo, non ti arrabbiare, colpa del vino e colpa del mare, d'estate non vale. Baby, le tue amiche non sono sincere, ti han detto che io faccio casino in quartiere, ma stai tranquilla, non devi temere, ti giuro che sono un cattivo ragazzo per bene. E scrollo sull'iPhone mentre aspetto tue notizie, e guardo lo schermo mentre il cervello mi frigge. Tu metti il cuore solo su Instagram e Twitter, e spezzi il mio cuore, fai mille pixel. Se mi vieni a cercare solo d'estate non vale, se non mi riprendo non ti rispondo, non richiamare. Se ti dico che arrivo poi non arrivo, non ti arrabbiare. Solo d'estate.